Chi è la vera madre? Questo è successo da qualche parte in India, molto, molto tempo fa. Una giovane madre si mise in viaggio con sua figlia verso un villaggio lontano. Per arrivarci, aveva bisogno di attraversare una bellissima foresta. La madre era felice perché la sua bambina sembrava contenta nel sentire cantare gli uccelli. Rideva mentre cercava di giocare con le farfalle che le svolazzavano attorno. E sembrava amare l'odore dei fiori che sua madre le aveva dato. La madre camminò a lungo fino a quando non arrivarono ad un lago. L'acqua del lago era blu scintillante. Sembrava così bello e rinfrescante che la madre decise di fare un piccolo tuffo. Lasciò la sua bambina su un ciuffo di soffice erba sulla riva e andò a fare una nuotata veloce. Mentre la madre faceva il bagno, sentì un suono. «Ti dispiace, mia cara, se gioco con tua figlia fino a quando non esci dall'acqua?» La madre vide un'altra giovane donna guardare affettuosamente la sua bambina. Lei sorrise. «Certo, puoi giocare con lei!» «Ciao, brava bambina! Nice, bambina!» «Dato che sono qui, non ti preoccupare! Prenditi il tuo tempo e goditi il tuo bagno!» Sentendo la sua piccola ridere e giocare, la mamma decise allora di nuotare ancora per qualche istante. «Perché non riesco a sentirle? Bimba mia, aspetta! Dove la stai portando? Aspetta!» La madre si affrettò fuori dall'acqua e corse dietro alla donna. Quando la raggiunse... «Aspetta un minuto! Dove la stai portando?» «La tua bambina? Questa è la mia bambina! Quindi adesso vai via da qui!» «Come osi? Ridammi mia figlia!» «Ladra! Ladra di bambini! Rapitrice! Lascia andare mia figlia!» In quel momento passarono alcuni abitanti della foresta. Sentirono le urla e andarono a vedere. «Qual è il problema?» «Aiutatemi, aiutatemi, per favore! Sta portando via la mia bambina! Aiutatemi, per favore!» «Sta mentendo! La bambina è mia! Sta cercando di rubarmi la bambina! Per favore, non ascoltate le sue bugie!» Le persone si guardarono confuse. Non riuscivano a capire quale delle due donne stesse dicendo la verità e quale di loro mentisse. Alla fine, uno di loro fece un passo avanti. «C'è solo un modo per risolvere la questione. Dobbiamo portarvi dal nostro capo.» «Perché? Vi sto dicendo che questa bambina è mia! Perché non mi ascoltate? Siete tutti ladri di bambini, giusto?» «Nessuno di noi è un ladro, ma è chiaro che una di voi lo è, e per di più nella nostra foresta. Quindi non possiamo lasciare andare nessuno di voi fino a quando la questione non sarà risolta. Ora venite con noi.» Portarono le donne attraverso i tortuosi sentieri nella foresta, fino a quando raggiunsero una curiosa grotta. Parlarono con le guardie in un linguaggio curioso. Entrarono in una grotta buia. Non potevano vedere nulla, fino a quando all'improvviso apparve dall'oscurità come un fantasma il capo in piedi davanti a loro. «Urbinaka kalicimbalakaban! Uka! Chi di voi è la madre?» «Sono io! Sono io!» «Shula!» «Ora, nel mondo della giungla, la forza vince! La bambina è qui! Una di voi terrà la testa della bambina e l'altra terrà le gambe della bambina! E tirerete entrambe! Vediamo chi di voi è più potente!» Entrambe le donne si inginocchiarono accanto alla bambina. La bambina guardò la vera madre e sorrise. Si protese verso di lei e le strinse la manina attorno al dito. La madre pianse e gentilmente abbracciò la bimba. Improvvisamente ci fu un suono di tamburi. «Che la sfida abbia inizio!» Non appena la strega lo sentì, tirò le gambe della bambina così forte, mentre invece la vera madre guardava affettuosamente sua figlia. Quando le sue gambe furono tirate, la bambina iniziò a piangere. La vera madre era inorridita. «Ferma, ferma! Mi arrendo, non voglio partecipare! Per favore, ferma!» «Ho vinto! Ho vinto! La bambina è mia!» «Restituisci la bambina alla sua vera madre!» «Ma ho vinto!» «No, non l'hai fatto! Hai solo rivelato che sei la ladra e che lei è la vera madre!» «Tu sei ingiusto! Avevi detto che nella giungla la forza vince!» «E io ho tirato la bambina!» «Sì, ho detto che potrebbe essere giusta, ma intendevo la forza della maternità. Era disposto a rinunciare a sua figlia solo per assicurarsi che non gli venisse fatto alcun male. Solo la vera madre avrebbe potuto sacrificarsi così!» «Ecco tua figlia, mia signora!» «Grazie! Grazie mille!» «So chi sei! Non farti più vedere nella nostra foresta, altrimenti...» «Bene, Varraj! Bene! Un giorno sarò in grado di avere la meglio su di te! Un giorno!» Non sappiamo se la strega sia mai ritornata nella foresta. Ma è chiaro che se anche lo avesse fatto, non sarebbe mai stata in grado di vincere contro la forza dell'amore genuino e incondizionato di una madre.